25, Frederick. Margaret incominciò a chiedersi se tutte le proposte di matrimonio fossero così inaspettate prima, così dolorose nel momento in cui venivano fatte, come le due che aveva ricevuto lei. Un involontario confronto tra signor Lennox e il signor Thornton sorse nella sua mente. Si era dispiaciuta che le circostanze avessero indotto il signor Lennox a esprimere un qualsiasi altro sentimento che non fosse amicizia. Quel dispiacere fu l'emozione predominante la prima volta che le capitò di ricevere una proposta. Non si era sentita così sconcertata, così colpita come in questo momento. La voce del signor Thornton aleggiava ancora nella stanza. Nel caso di Lennox, lui parve per un attimo essere scivolato oltre il confine tra l'amicizia e l'amore, e l'istante successivo sembrò dispiacersi quasi quanto lei, anche se per ragioni diverse. Ma nel caso del signor Thornton, per quanto ne sapesse Margaret, non c'era stato nessuno stadio di amicizia intermedio. Il loro rapporto era stato un continuo susseguirsi di contrasti, le loro opinioni stridevano e davvero lei non aveva mai percepito che lui tenesse in considerazione le sue opinioni in quanto appartenenti a lei, Margaret. Per quanto sfidassero il suo carattere di ferro e il suo ardore, sembrava respingerle con disprezzo, fin quando lei si sentiva stanca per lo sforzo di protestare inutilmente. E adesso si era presentato da lei con quell'atteggiamento così stranamente incontrollato e passionale a dichiarare il suo amore. Perché? Seppure all'inizio avesse pensato che a incoraggiare e forzare la sua proposta fosse stata una sincera compassione per il suo essersi esposta in quel modo. Cosa che lui, come tanti, avrebbe potuto fraintendere, in un secondo tempo, ancor prima che uscisse dalla stanza, o certamente non più di 5 minuti dopo, si insinuò in lei, chiara e limpida, la convinzione che lui l'amava davvero, l'aveva amata e l'avrebbe amata. Indietreggiò e rabbrividì come ammaliata da un immenso potere per il quale aveva sempre provato disgusto. Si sottrasse e si nascose al suo pensiero. Ma non servì a nulla. Per imitare un verso del Tasso di Fairfax, la sua possente idea vagava tra i pensieri di lei. Lo detestava ancora di più perché aveva sfidato la sua volontà più profonda. Come osava dire che avrebbe continuato ad amarla nonostante il suo sprezzante rifiuto? Oh, se solo avesse parlato con più determinazione. Frasi taglienti e mordaci le affollarono la mente, adesso che era troppo tardi per pronunciarle, e l'impressione che le aveva fatto quel colloquio era identica a quella di un sogno orribile, quel sogno che non abbandona la stanza anche se ci svegliamo e ci strofiniamo gli occhi e forziamo sulle labbra il sorriso più severo. È lì, proprio lì, che si impunta e si acquatta come un essere dagli occhi sbarrati e spaventosi in un angolo della camera. In ascolto per controllare se osiamo rivelare a qualcuno la sua presenza. E noi non osiamo, poveri codardi che non siamo altro. E così inorridì per quella minaccia di eterno amore. Che cosa voleva dire? E lei non aveva la forza di scoraggiarlo? Ah, era da vedere. Nessun uomo poteva essere così audace da minacciarla in questo modo. Si era forse basato su quel miserabile ieri. Lo avrebbe rifatto il giorno dopo se ce ne fosse stato bisogno per un mendicante storpio. Spontaneamente e con piacere. Ma anche per lui l'avrebbe fatto, proprio con lo stesso coraggio, nonostante le sue illazioni e il vile fango che le gettava addosso l'impertinenza di una donna. Lo aveva fatto perché era giusto, naturale e onesto salvare il salvabile, anche solo per tentare. Fais ce que dois, advienne que pourra. Fino a quel momento non si era mossa dal punto in cui l'aveva lasciata. Nessun evento esterno l'aveva destata dallo stato di incantamento in cui l'avevano spinta le sue ultime parole, i suoi occhi accesi di passione, le cui fiamme le avevano fatto abbassare lo sguardo. Andò alla finestra e la spalancò per lasciare uscire quel senso di oppressione che gravava su di lei. Poi andò ad aprire la porta con una sorta di istintivo desiderio di liberarsi del ricordo dell'ora appena trascorsa in compagnia di altre persone o impegnandosi in qualche lavoro. Ma tutto era completamente muto nella quiete del mezzogiorno di una casa in cui un malato cerca di prendere il sonno non ristoratore che gli viene negato nelle ore notturne. Margaret non sarebbe stata sola. Cosa doveva fare? Andare a trovare Bessie Higgins, certo, pensò quando le balenò in mente il ricordo del messaggio della sera prima, e uscì. Quando arrivò lì, trovò Bessie distesa sulla panca, spostata vicino al fuoco, sebbene la giornata fosse afosa e opprimente. Giaceva completamente distesa, come se stesse riposando, priva di forze, dopo un qualche violento attacco di dolore. Margaret era certa che avesse bisogno di respirare più liberamente, cosa che una posizione meno distesa le avrebbe consentito, e senza dire nulla la sollevò e sistemò i cuscini in modo tale che Bessie si sentisse più a suo agio, nonostante fosse spossata. Pensavo che non vi vedevo più, disse alla fine, guardando Margaret con malinconia. Oh, temo che tu sia peggiorata, ma non sono potuta venire ieri. Mia madre è stata così male e per svariati motivi, disse Margaret arrossendo. Che magari avete pensato che dovevo restarmene al posto mio quando ho mandato Mary a chiedere di voi. Ma le discussioni e le urla forti mi hanno proprio distrutta. E quando papà è uscito ho pensato, oh, magari che posso sentire anche solo la sua voce che mi legge un po' di parole di pace e di promesse, che poi posso morire nel silenzio e nella quiete eterna, proprio come un bambino che sta zitto e dorme con la ninna nanna della sua mamma. Vuoi che ti legga un capitolo, adesso? Sì, per favore, fatelo. Magari che non ascolterò il senso all'inizio, mi sembrerà lontanissimo, ma quando arriverete alle parole che mi piacciono e ai pezzi che mi danno conforto, mi sembrerà che è vicino al mio orecchio e che mi attraversa tutta, per così dire. Margaret incominciò. Beh sì, si muoveva irrequieta avanti e indietro, se con uno sforzo per un attimo si metteva ad ascoltare, quello dopo sembrava doppiamente agitata e in preda alle convulsioni. Alla fine esclamò: «Non andate avanti a leggere, non serve a niente. Non riesco a cavarmi sto pensiero dalla testa, che penso con rabbia che non c'è niente da fare, che l'avete sentito della sommossa, immagino, a Marlborough Mill, la fabbrica di Thornton, sapete? Tuo padre non c'era, vero?» disse Margaret diventando tutta rossa. Lui no, si tagliava anche la mano destra, si tagliava per non farli andare. Ecco perché sono tutta agitata. C'è il morale a terra, che non serve a niente diglielo, che gli stupidi vogliono sempre strafare. Un uomo così a terra come lui non lo avete mai visto. Ma perché? Chiese Margaret. Non capisco. Beh, vedete, è che lui è un delegato in questo particolare sciopero. Il sindacato l'ha nominato perché, anche se non dovrei dirlo, lo considerano uno che sa il fatto suo e onesto fino al midollo, e lui con gli altri delegati ha fatto qualche piano. Dovevano restare tutti uniti, nella buona e nella cattiva sorte, che quello che pensava la maggioranza lo dovevano pensare anche gli altri, che gli piaceva o no. E soprattutto non bisognava andare contro la legge. E la gente ci sarebbe andata con loro se vedeva che faticavano e facevano la fame con santa pazienza. Ma se c'era anche solo una volta qualche avvisaglia di lotte, scontri, persino coi cromiri, avevano chiuso e lo sapevano perché ci avevano tanta esperienza. Coi cromiri avrebbero cercato di trattare e di convincerli con le buone maniere di ragionare con loro e forse anche di metterli in guardia. Ma qualsiasi cosa succedeva, i delegati raccomandavano a tutti i membri del sindacato di non reagire e se ce n'era bisogno anche di morire, senza colpire nessuno. E allora ci potevano scommettere che la gente, sicuro, stava dalla loro. E oltre a tutto questo, i delegati sapevano che quello che chiedevano era giusto e non volevano che le cose giuste si mescolavano tutte con quelle sbagliate. Fino a quando la gente non imparava a separarle, non più di quanta medicina in polvere io riesca a separare dalla gelatina che mi avete dato per mischiarcela insieme. Di gelatina ce n'è molta di più, ma il gusto della medicina lo senti? Beh, ve ne ho detto un bel po' di cose, ma adesso sono sfinita. Ve lo potete immaginare da sola cosa deve essere per papà vedere tutto il suo lavoro distrutto da uno stupido come Boucher, che ci ha avuto bisogno di andare proprio contro i delegati e di rovinare lo sciopero in modo così malvagio, come un Giuda. Ma ieri sera papà gliele ha suonate. È arrivato al punto di dire che andava dai poliziotti e gli diceva dove potevano trovare il capobanda della rivolta. Lo voleva consegnare agli industriali, così ne potevano fare quello che volevano loro. In questo modo ce lo dimostrava a tutti che i veri capi dello sciopero non erano tipi come Boucher, ma uomini che ci avevano testa. bravi manovali, bravi cittadini, amici delle leggi e delle sentenze che difendevano l'ordine, che volevano solo la loro giusta paga e non avrebbero lavorato, anche se morivano di fame, fino a quando non la ottenevano, ma che non avrebbero fatto del male alle cose o alle persone perché, abbassando la voce, si dice che Boucher ha tirato un sasso alla sorella di Thornton che l'ha quasi ammazzata. Non è vero, disse Margaret, non è stato Boucher a tirare il sasso. Diventò prima rossa, poi impallidì. Eravate lì allora? Chiese Bessie, priva di forze. Infatti aveva parlato facendo molte pause, come se parlare fosse per lei più difficile del solito. Sì, non importa, vai avanti, solo che non è stato Boucher a tirare il sasso. Ma che cosa ha risposto tuo padre? Non ha aperto bocca, era tutto che tremava, consumato dalla rabbia, tanto che non ce la facevo mica a guardarlo. Ho sentito il suo respiro che diventava affannoso e a un certo punto ho pensato che stava piangendo, ma quando papà gli ha detto che lo consegnava alla polizia, ha gridato forte e gli ha tirato un pugno in faccia, poi via come un fulmine. All'inizio il colpo aveva stordito mio padre, con tutto che Boucher era debole per la rabbia e per la fame. È rimasto per un po' seduto, coprendosi gli occhi con la mano. Non so dove ho trovato la forza, ma mi sono alzata dalla panca e mi sono aggrappata a lui. Papà, papà, ho detto io. Non andrai, vero, a denunciare quel povero morto di fame. Non ti lascerò mai uscire finché non mi dici che non lo farai. Non essere sciocca, fa lui. Tutti sono bravi a parlare. Non ho mai pensato di denunciarlo, anche se, per Dio, se lo merita. E me ne sarei dovuto fregare e farlo sbattere dentro, pure se era stato qualcun altro a fare il lavoro sporco, ma adesso che mi ha colpito a maggior ragione non lo farei, dato che ci sarebbero anche gli altri uomini che starebbero dalla mia nella questione. Ma se si riprenderà da questa fame e si rimetterà in sesto, ci prenderemo a botte e avrò la mia soddisfazione. Vedrò allora come aggiustarlo per bene. E così papà mi ha mandata via perché, a dire il vero, ero tanto stanca e debole. E lui stesso ci aveva una faccia bianca come il gesso, come se non aveva sangue, e stavo male a guardarlo. E non so se dormivo, ero sveglia o stavo per morire quando Mary è entrata e le ho detto di venirvi a chiamare. E adesso non parlatemi, ma leggetemi solo il capitolo. C'ho la mente più libera perché ho sputato il rospo, ma voglio pensare un po' a quel mondo lontano per togliermi il saporaccio dalla bocca. Leggetemi qualcosa, non un capitolo con un sermone, ma una storia. C'hanno delle immagini che le vedo quando ho gli occhi chiusi. Leggetemi dei nuovi cieli e della nuova terra, e magari tutta questa storia me la dimentico. Margaret lesse con la sua voce bassa e dolce. Bessie teneva gli occhi chiusi, ma per un po' rimase ad ascoltare, perché le lacrime si raccolsero abbondanti sulle sue ciglia. Alla fine si addormentò tra vari sussulti e suppliche bisbigliate. Margaret la coprì e se ne andò, avvertendo la strana sensazione che potessero avere bisogno di lei a casa e allo stesso tempo, in quel momento, le sembrava crudele lasciare quella ragazza che stava morendo. La signora Hale era in salotto al ritorno della figlia. Era uno dei suoi giorni buoni ed era piena di lodi per il letto ad acqua. Era più simile ai letti della casa di Sir John Burnsford di qualsiasi altro letto in cui aveva dormito fino ad allora. Non sapeva perché, ma la gente sembrava aver perduto l'arte di fare quel tipo di letti che facevano quando lei era giovane. Si poteva pensare che non fosse poi tanto difficile. Le piume che servivano erano sempre le stesse, eppure, in qualche modo, fino alla notte passata non sapeva quando era stata l'ultima volta che aveva dormito così bene. Il signor Hale suggerì che forse parte dei meriti dei letti di piume di una volta era dovuta alla vita attiva della giovinezza che faceva gustare il sonno, ma a sua moglie quest'idea non piacque per niente. No, a dire il vero, signor Hale, erano i letti della casa di Sir John. Ora, Margaret, tu che sei ancora giovane e vai in giro durante il giorno, trovi comodi i letti? Lo chiedo a te. Ti danno la sensazione di un riposo perfetto quando ti distendi? O invece ti giri e cerchi invano di trovare una posizione comoda e ti svegli la mattina stanca come quando sei andata a dormire. Margaret rise. A dire la verità, mamma, non ho proprio mai pensato al mio letto, a che tipo di letto sia. Sono così stanca la sera che da qualsiasi parte io mi distenda mi metto a sonnecchiare subito. Quindi non credo di essere una testimone adatta. D'altronde, sai, Non ho mai avuto l'opportunità di provare i letti di Sir John Beresford, non sono mai stata a Oxenham. Non eri tu? Oh no, certamente. Era il povero caro Fred che avevo portato con me, mi ricordo. Sono andata a Oxenham soltanto una volta dopo essermi sposata per il matrimonio di tua zia Shaw e il piccolo Fred, poverino, era l'unico bambino allora. E ricordo che a Dixon non piacque quel cambiamento da cameriera a bambinaia. E io avevo paura che portandola nella sua vecchia casa e tra le persone che conosceva avrebbe potuto lasciarmi. Ma il mio povero bambino si ammalò a Oxenham a causa dei dentini. E dato che io trascorrevo la gran parte del tempo con Anna, che stava per sposarsi, e visto che io stessa non ero molto in salute, Dixon fu incaricata di badare a lui più di quanto non avesse mai fatto prima, e ciò la fece affezionare così tanto a Fred ed era così fiera quando dava le spalle a tutti e si aggrappava a lei che non credo abbia mai più pensato di lasciarmi, sebbene fosse tutto molto diverso da quello a cui era abituata. Povero Fred, tutti gli volevano bene. È nato con il dono di conquistare il cuore delle persone. Ciò mi fa pensare molto male del capitano Reid, sapendo che il mio caro ragazzo non gli piaceva. Penso che sia la prova lampante che non aveva un buon cuore. Ah, il tuo povero padre, Margaret, è uscito dalla stanza, non sopporta di sentir parlare di Frederick. Io adoro sentir parlare di lui, mamma. Raccontami tutto quello che vuoi, non potrai mai dirmi abbastanza. Raccontami com'era da piccolo. Beh, Margaret, non offenderti, ma era molto più carino di te. Ricordo che quando ti ho vista per la prima volta tra le braccia di Dixon dissi: Mio Dio, che bruttina! E lei disse: Non tutti i bambini sono come il padroncino Fred, Dio lo benedica. Mio Dio, come lo ricordo bene! Allora avrei potuto tenere Fred tra le braccia ogni minuto del giorno e la sua culla era accanto al mio letto. E adesso, adesso, Margaret, non so dove sia il mio ragazzo e a volte penso che non lo rivedrò mai più. Margaret si sedette su un piccolo sgabello vicino al divano su cui stava la madre e le prese dolcemente la mano accarezzandola e baciandola per darle conforto. La signora Hale pianse senza contegno. Alla fine si mise a sedere ben dritta e rigida sul divano e girandosi verso sua figlia disse tra le lacrime con una serietà quasi solenne: Margaret, se riuscirò a stare meglio, se Dio mi concederà la grazia di guarire, sarà perché avrò visto mio figlio Frederick ancora una volta. Riuscirà a dar vita a quel po' di salute che mi resta. Fece una pausa e sembrò cercare di raccogliere le forze per qualcosa di ancora più importante che doveva dire. La sua voce era strozzata mentre continuava a parlare, tremava come se contemplasse un'idea bizzarra eppure vicina alla realtà. E poi, Margaret, se devo morire. Se sono tra quelle destinate a morire in poche settimane, devo prima vedere il mio primogenito. Non so come si possa fare, ma ti affido questo incarico, Margaret, come fossi tu stessa a sperare in un conforto nella tua ultima ora. Conducilo qui da me perché possa benedirlo. Soltanto per 5 minuti, Margaret. Non può esserci nessun pericolo in 5 minuti. Oh, Margaret, fai in modo che io lo veda prima di morire. Margaret pensò che questo discorso non avesse proprio nulla di irrazionale. Non cerchiamo la ragione o la logica nelle accorate suppliche di coloro che sono malati terminali. Ci ferisce piuttosto ricordare le migliaia di occasioni mancate per soddisfare i desideri di coloro che presto ci lasceranno. E se ci chiedono una vita futura felice, noi la poniamo ai loro piedi e siamo pronte a rinunciarci noi stesse, tuttavia. Questo desiderio della signora Hale era così naturale, così legittimo, così giusto da ogni parte lo si considerasse, che Margaret, per rispetto nei confronti tanto di Frederick che di sua madre, si sentì in dovere di passare sopra tutte le possibilità di pericolo che vi si frapponevano e di impegnarsi a fare tutto ciò che era in suo potere affinché si realizzasse. Quei grandi occhi sgranati e supplicanti erano puntati su di lei in modo malinconico e insistente, sebbene le povere labbra bianche tremassero come quelle di un bambino. Margaret lentamente si alzò e si mise in piedi di fronte alla fragile mamma, così che lei, dalla calma fermezza sul volto della figlia, potesse dedurre che il suo desiderio sarebbe stato sicuramente esaudito. Mamma, Scriverò a Frederick stasera e gli riferirò quello che mi hai detto. Sono così certa che verrà subito da noi, come sono certa che sono viva. Stai tranquilla, mamma, lo vedrai, per quanto sia umanamente possibile promettere qualcosa. Scriverai? Stasera? Oh, Margaret, la posta viene raccolta alle 5. Scriverai entro quell'ora, vero? Mi restano così poche ore. Ho l'impressione, cara, che non mi riprenderò, sebbene tuo padre cerchi di convincermi a sperare. Scriverai subito, vero? Non perdere neanche una sola raccolta della posta, perché proprio per una sola raccolta potrei perdere lui. Ma mamma, papà è fuori. Papà è fuori. E allora? Vuoi dire che mi negherebbe quest'ultimo desiderio, Margaret? Beh, non mi sarei ammalata. Non starei morendo se non mi avesse portata via da Helston, in questo luogo insalubre, fumoso e senza sole. Oh, mamma, disse Margaret. Sì, è così invece, lo sa anche lui, lo ha detto tante volte, farebbe qualsiasi cosa per me. Non puoi dire che mi negherebbe questo mio ultimo desiderio o preghiera, se preferisci, e davvero, Margaret, la brama di vedere Frederick si pone tra me e Dio. Non posso pregare finché non sia compiuta questa mia volontà, anzi, non ci riesco. Non perdere tempo, Margaret cara, scrivi stasera, prima della prossima raccolta, così riuscirà a essere qui, qui, tra 22 giorni, perché verrà sicuramente. Nessuna corda o catena potrebbe trattenerlo. Tra 22 giorni vedrò il mio ragazzo. Si lasciò cadere indietro e per un breve istante non badò al fatto che Margaret sedeva immobile con una mano sopra gli occhi. Non stai scrivendo, disse la madre alla fine. Portami carta e penna, proverò a scrivere da sola. Si sedette, tremando, tutta con febbrile eccitazione. Margaret le abbassò la mano e la guardò con rassegnazione. Aspettiamo almeno che torni a casa papà, chiediamo a lui come meglio fare. Hai promesso, Margaret, neanche un quarto d'ora fa hai detto che sarebbe venuto. E infatti verrà, mamma. Non piangere, mamma adorata. Scrivo qui, adesso. Guarda come scrivo. E andrà con la prossima raccolta della posta. E se papà lo riterrà giusto, scriverà di nuovo al suo ritorno. Si tratterebbe di un solo giorno di ritardo. Oh, mamma, non piangere in quel modo così penoso. Mi spezza il cuore. La signora Hale non riusciva a fermare le lacrime. Piangeva in modo isterico e in verità non faceva alcuno sforzo per controllare il pianto, ma evocava invece le immagini di un passato felice e del probabile futuro, dipingendo la scena di quando sarebbe morta con il figlio che aveva ardentemente desiderato vedere in vita, che piangeva sulla sua salma. E lei, inconsapevole della sua presenza, finché l'autocommiserazione non la portò a struggersi tra i singhiozzi in un convulso stato di sfinimento che straziava Margaret. Ma finalmente si calmò e osservò avidamente la figlia mentre iniziava la lettera. La scrisse con implorante urgenza e la sigillò in fretta per paura che sua madre chiedesse di vederla. Poi, per garantire maggiormente la sicurezza, proprio su richiesta della signora Hale, la portò di persona all'ufficio postale. Stava tornando a casa quando suo padre la superò. «E dove sei stata, signorina?» domandò. «All'ufficio postale con una lettera per Frederick. Oh, papà, forse ho fatto male, ma la mamma era presa da una tale smania di vederlo. Ha detto che l'avrebbe fatta stare di nuovo bene e poi ha detto che doveva vederlo prima di morire. Non immagini quanto fosse insistente. Ho fatto male!» Il signor Hale non rispose subito. Poi disse: «Avresti dovuto aspettare il mio ritorno, Margaret.» «Ho cercato di convincerla, papà!» E poi stette in silenzio. «Non so», disse il signor Hale dopo una pausa. «Dovrebbe vederlo se lo desidera così tanto, perché penso che le farebbe molto meglio di qualsiasi medicina e forse la farebbe guarire del tutto, ma il rischio per Frederick è molto alto, temo. Dopo tutti questi anni, dall'ammutinamento, papà.» «Sì, è necessario, ovviamente, che chi governa prenda misure molto rigorose per reprimere i reati contro l'autorità, soprattutto nella Marina, dove un ufficiale al comando ha bisogno di essere circondato da uomini che lo proteggano e di avere la chiara consapevolezza che tutte le autorità in patria lo sostengono, che difendono la sua causa e che vendicano ogni offesa che gli viene fatta, se serve. Ah! A loro non interessa fino a che punto i loro ufficiali siano stati dei tiranni, fino a che punto abbiano umiliato individui poco remissivi, fino a condurli alla pazzia. Oppure Se questa tirannia potrà un giorno essere in qualche modo presa in considerazione, in prima istanza non verrebbe mai tenuta in conto. Non badano a spese, mandano navi per lustrare i mari, per catturare i trasgressori, neanche gli anni cancellano il ricordo dell'offesa. È un crimine sempre attuale e vivo nei registri dell'ammiragliato finché non viene cancellato col sangue. Oh papà, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Eppure mi sembrava la cosa giusta in quel momento. Sono certa che lo stesso Frederick correrebbe il rischio. Oh sì che lo farebbe, dovrebbe farlo. No, Margaret, sono contento che sia andata così. Io non avrei avuto il coraggio di scrivere. Sono sollevato che le cose siano andate così. Avrei esitato finché forse non sarebbe stato troppo tardi per riuscire a fare qualcosa. Margaret, cara, hai fatto quello che è giusto. E come andrà a finire? Non dipende da noi. Poteva anche essere d'accordo, ma il racconto di suo padre sui modi inflessibili di punire gli ammutinati la inquietava, e se avesse fatto tornare a casa suo fratello mettendolo in trappola per ottenere soltanto che il ricordo del suo errore venisse cancellato con il sangue. Vide che la preoccupazione del padre era più radicata e più profonda della fiducia delle sue ultime incoraggianti parole. Lo prese sotto braccio e, stanca e turbata, camminò con lui verso casa.